Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Qui è Jack Arnoldi, dell'ufficio del governatore Haskins. Vorrei parlare con lei, signore. Ma chiamami vecchio iguana. Ah, sì, vecchio iguana. Dove è nato lei, signore? Su un 18 ruote. È tutta una vita che sto su un camion. E abbiamo piene le scatole di massacrarci gli occhi da costa a costa solo per farci fregare tutti i soldi da quegli orsi fottuti. Avete appena sentito una clip tratta da Convoi, trincea d'asfalto, un film western camionaro degli anni 70, dove il mondo degli autisti, dei camion, dei tir e della logistica è rappresentato con un gusto avventuroso, un po' retro, magari un mondo che non era così, non è mai stato così, ma che affascinava. Quel mondo sta morendo. Il mondo dei trasporti che noi ci affacciamo a vivere sarà completamente diverso. E sarà più affascinante perché ci saranno camion che si guidano da soli, ci saranno droni, ci saranno controlli remoti, ci saranno anche delle cose che molti di noi non potrebbero immaginare che esistano. Per esempio, lo sapete che negli Stati Uniti sta iniziando ad affermarsi l'Uber delle cose? Cioè singoli cittadini che vengono utilizzati dalla grande distribuzione o dalle fabbriche per portare dei pacchi, per magari pacchi di Walmart, sono già stati fatti con l'Uber delle cose, disoccupati o pensionati che si prestano a fare la consegna con i loro mezzi. La logistica, i trasporti, le autostrade, i camion, nel mondo del 4.0, nel mondo della robotica, cambieranno totalmente. E noi oggi ne parliamo con Ermanno Rondi, che è il managing director di un'azienda che fa logistica robotizzata, anzi del leader in Italia nella logistica robotizzata per le fabbriche, che è la Incas. Buongiorno dottor Rondi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io intanto le ho rubato un'idea, perché quella del Uber delle cose me l'ha data lei. Non è un'idea, è semplicemente un riportare che cosa sta capitando in giro per il mondo, in una trasformazione che tocca tutti gli aspetti che vanno dalla produzione alla distribuzione. Ovviamente la logistica è uno degli aspetti più toccati, perché se oggi con l'e-commerce fino al momento dell'acquisto lavoriamo tutto sul virtuale, nel momento in cui questo bene deve essere consegnato, ecco che entra la logistica, deve toccare delle cose concrete. Tocca pochi pezzi singolarmente che devi consegnarli in tempi velocissimi a casa del consumatore nel modo migliore possibile. Quindi il vantaggio di un Uber delle cose è che se tu hai tante persone che si rendono disponibili per le consegne, puoi in qualsiasi momento fare più consegne rispetto a degli autisti che sono soggetti a un orario di lavoro. Certamente, certamente. È anche una trasformazione sociale che tocca questi aspetti. Ecco, ma il mondo del 4.0 vuol dire interconnessione totale, vuol dire sensori su ogni cosa, vuol dire magazzino ridotto al minimo o in certi casi azzerato, vuol dire produzione just in time per ordine e non per il magazzino, e vuol dire tante innovazioni che cambieranno tutto il nostro modo di vivere. Ma questo, secondo lei, nella logistica che cosa comporta? Nella logistica comporta una trasformazione assoluta, nel senso che se vogliamo descrivere qual è l'evoluzione della logistica, possiamo dire che la logistica degli anni 90 consegnava pallet una volta al mese, la logistica dell'inizio anni 2000 consegnava scatole una volta alla settimana, la logistica di oggi consegna pacchetti n volte al giorno. Questo vuol dire che si trasforma completamente il modo in cui vengono gestiti i magazzini e il modo in cui vengono prodotte le cose. Se prima le aziende erano in versione spinta, quindi produco un prodotto, lo mando nei negozi e poi il consumatore lo compra, oggi è il consumatore che sceglie, avendo di fronte tutto ciò che è disponibile nel mondo, di cui conosce caratteristiche, prezzi, può confrontare, può scegliere, personalizzare, e di conseguenza è la domanda che trascina tutto il processo produttivo. Poi lei ha detto i magazzini sono a zero. Diciamo che i magazzini sono al minimo e sono gestiti in tempo reale con quella che è la richiesta del mercato. Questa è la grandissima sfida. Vuol dire automazione, Vuol dire molta più conoscenza all'interno del processo logistico, quindi vuol dire introduzione di persone con degli high skill che sono in grado di gestire dei processi complessi, e l'automazione aiuta, perché in un giro di questo genere, nel momento in cui consegno il pezzo singolo al mio consumatore, un errore, spesso è più conveniente lasciare il prodotto sbagliato al cliente e mandargliene un altro che farselo rientrare. Quindi capisce che l'errore non è ammesso. Non commettere errori vuol dire essere supportati da dell'automazione, che specialmente nel nostro paese deve essere un'automazione molto flessibile, molto resiliente, perché i cambiamenti sono all'ordine del giorno e quasi delle ore. Quindi nel vecchio mondo, quello che va scomparendo, c'erano le materie prime, l'acciaio, la plastica, il legno e quello che vuoi tu. C'era un ciclo di lavorazione, si arrivava al prodotto finito, un prodotto finito finiva nei magazzini e si sperava che ci fosse qualcuno pronto ad acquistarlo. Adesso c'è l'ordine, e l'ordine innesca il processo di produzione che poi va sulle materie prime che magari vengono acquistate allo scopo. Ecco, lei ha toccato esattamente il punto di quella che è la sintesi della trasformazione 4.0. Mentre nel passato descrivevamo un processo produttivo partendo dalla materia prima e descrivendo tutte le fasi che arrivavano fino al prodotto finito, adesso dobbiamo descrivere il processo produttivo partendo dall'ordine cliente e tirando di volta in volta ciò che serve, quando serve e come serve. Tutto questo sì, è facile a dirsi, è molto meno facile a realizzarsi, ma è la sintesi della trasformazione 4.0, che non è solo macchine, automazione, digitalizzazione e così via, ma è il cambio di un modello organizzativo e, se vogliamo, anche di un modello culturale che attraverso dell'automazione, attraverso delle macchine lo interpreta. Quindi le macchine sono un mezzo e non sono un fine. Se uno fa un acquisto solo di una macchina senza aver chiaro il cambio del modello organizzativo, rischia di buttare via dei soldi. Quindi diamo una definizione di quello che vuol dire la logistica al tempo del 4.0 e dei robot. Ma la logistica al tempo del 4.0 è una logistica che ha alcune caratteristiche che sono, prima di tutto, la velocità. Un tempo si ragionava che devo consegnare, ricevo un ordine oggi e devo consegnare entro domani, oggi ricevo un ordine oggi e lo consegno entro pochissime ore, quindi la velocità in primis, la precisione. Si parla di capacità di consegnare il singolo pezzo quando serve, dove serve, come serve, capacità di tracciare tutto il processo, di tenere informato in modo assolutamente trasparente il consumatore di quello che è capitato, di dov'è il suo ordine, quando gli arriva, in che modo e dove. Comunque la logistica non è più il problema di trasportare qualcosa che magari chi produce e chi vive manco più vede, perché da quando esce dall'azienda e va nei camion si perde di vista il tutto. La logistica entra nelle fabbriche, entra nei processi di produzione, entra nelle aziende e alla fine entra nelle nostre vite. Ci interrompiamo un attimo per avvisi sul traffico, varie ed eventuali. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Attenzione a tutti i camion! A tutti i camion, attenzione! Qui è l'agente federale Hamilton! Vi ordino di fermare i camion! Vi ordino di fermarvi immediatamente! State violando la legge federale! Avete sentito un altro pezzo di Convoi Trincea d'Asfalto, vecchio film sul vecchio mondo dei camionari. I camionari non ci saranno più, ma ci saranno cose molto più affascinanti, come ho detto già nella prima parte di questa trasmissione. E cioè ci sarà una logistica, un mondo dei trasporti basato su guida automatica, su robot, su camion più piccoli, su droni, su una automazione che cambierà profondamente il nostro modo di vivere. Quindi dire parliamo della logistica all'epoca del 4.0 non significa parlare di un argomento settoriale. generale, ma significa parlare anche di come si modificherà il nostro modo di vivere. Di tutte queste cose ne stavamo parlando nella prima parte della trasmissione, ne continuiamo a parlare ora con Ermanno Rondi, che è l'amministratore delegato della Incas, società di logistica robotizzata. Senta, ma Rondi, ma perché i camion sono più piccoli? I camion sono più piccoli perché abbiamo delle consegne più veloci, molto più frazionate, quindi fa premio la velocità che e non la massimizzazione del carico, anche se non esistono i camion grandi che servono per fare le tratte lunghe, quindi per spostare il prodotto su tratte lunghe. Oppure per trasportare cose grandi, se uno trasporta tubi per il petrolio, ovviamente ha bisogno ancora del TIR. Ovviamente, la dimensione del prodotto è chiaramente determinante, ma poi quando si entra in città, l'ultimo miglio è fatto di un enorme frazionamento e oggi si vede di tutto, comprese le biciclette che vengono utilizzate per fare delle consegne veloci, molto più dinamiche, molto più fluide. Quindi un mondo che sta cercando anche un suo equilibrio, perché per esempio è aumentata tantissimo la cosiddetta logistica di ritorno. Oggi le persone acquistano un prodotto, magari acquistano tre taglie, ne le provano e due le rendono. Quello che avviene con Zalando e con altri siti di questo tipo. Esattamente, quindi la logistica deve interpretare in modo assolutamente organizzato anche il concetto di ritorno del prodotto, perché per poter avere successo sull'e-commerce io devo avere il sito facile, deve essere sempre disponibile, la consegna deve essere veloce, ma altrettanto semplice deve essere il poter ritornare un prodotto se questo prodotto non soddisfa i bisogni del nostro consumatore. Ecco, ma cosa vuol dire logistica robotizzata? Ma logistica robotizzata vuol dire tante cose. Diciamo che le accezioni che ci sono oggi vuol dire avere un prodotto che non viene più stoccato solo su degli scaffali con una persona che va in giro come quando facciamo la spesa al supermercato per andare a prendere il prodotto richiesto, ma viene messo in cassette. Queste cassette sono messe a stock da un sistema automatizzato che si chiamano mini load, che lo stoccano, lo tirano fuori nel momento in cui serve, presentano la cassetta davanti all'operatore che prende il prodotto e lo confeziona pronto per essere spedito. Quindi non ho più degli operatori che fanno essenzialmente i camminatori, ma ho degli operatori che devono stare in una posizione fissa, quindi molto meno faticosa. Non faccio errori perché ti faccio arrivare la cassetta con il prodotto giusto al momento giusto e sono ovviamente molto più efficiente nel consentire questo tipo di operazione. Ecco, questo vuol dire che l'operatore di logistica entra fin dentro la fabbrica, fin dentro i processi produttivi, magari fornisce delle attrezzature che poi la fabbrica usa al suo interno. Assolutamente, in effetti la rivoluzione 4.0 è per gran parte una rivoluzione logistica, tanto è vero che si parla di factory logistics, proprio perché oggi, e stiamo realizzando nell'ultimo anno anche grazie agli incentivi dell'iperammortamento, gli impianti che si stanno facendo di logistica automatizzata sono proprio all'interno della fabbrica, dove il magazzino è il distributore dei componenti piuttosto che delle materie prime o dei semilavorati direttamente sui punti di lavoro, che magari sono anche dei robot o dei cobot e delle persone che lavorano in modo integrato. Ma tolgo tutto quello che era quel flusso di materiali con carrelli che venivano spinti e abbandonati in giro per i corridoi, ma deve essere un sistema che ha un flusso teso, che fluisce in modo continuo, tirato dall'ordine, come si diceva prima. Ecco, la sua azienda, la Incas, che cosa fa esattamente? La Incas parte da quella che è l'esigenza del nostro cliente, definisce qual è la soluzione in base ai suoi modelli, alle sue esperienze, alla conoscenza del cliente e così via, e realizza interamente l'impianto mettendo assieme i pezzi di meccanica per l'automazione, la parte di governo e di controllo di questa automazione e il software che supervede a tutte le funzioni, integrandolo con l'ERP gestionale, integrandolo con le macchine, integrandolo con i pezzi che stanno a monte e a valle di questi magazzini. Sulla storia della Incas sentite qua. La Incas di Biella è la principale società italiana nella supply chain automation. ovvero nella progettazione e implementazione di soluzioni automatizzate e robotizzate per i trasporti e la gestione della catena di produzione aziendale. Progetta e realizza soluzioni che comprendono robot antropomorfi, veicoli che si guidano da soli, magazzini automatizzati, software, sistemi di lean manufacturing e quant'altro. I suoi ricavi sono di circa 40 milioni di euro, con un tasso di crescita del 20% anno su anno. Incas nasce nel 1981 a Biella dalla volontà di diversificazione di un imprenditore tessile, Paolo Piana, e dalla visione di un allora giovane tecnico Ermanno Rondi, con esperienza nel settore aeronautico. Tra le prime società a usare i personal computer, a metà degli anni 80, Incas brevetta un sistema per l'etichettatura logistica con l'uso di stampanti di mercato. Alla OMSA di Faenza, inoltre, brevetta un sistema innovativo di gestione di magazzino a radiofrequenza. Le maggiori realtà industriali e distributive, non solo italiane, utilizzano i software di gestione di magazzino e gestione del trasporto EasyStore e Delsi di Incas e hanno installato i magazzini automatici per cassette, mini load, shuttle, verticali o per pallet, traso elevatori. Oppure hanno organizzato il layout di magazzino con le movimentazioni interne per rendere efficienti le fasi di evasione ordini. Incas collabora con aziende come FCA, Amplifon, Phoenix Contact, Bayer, Gucci, Erbolario, Golden Lady e Feltrinelli. Rieccoci in linea dopo la scheda e sulla Incas va segnalato che c'è stato un incremento di fatturato, no? Dal 2015 al 2016. Assolutamente, siamo cresciuti del 20%, oggi abbiamo fatto un 2016 a 32 milioni e stiamo arrivando a pianificare un 2017 a 37 milioni. Questo perché voi lavorate molto con l'industria e l'industria sta riprendendo a tirare. Abbiamo visto nelle scorse puntate che ci sono dei dati sull'incremento dei robot, l'incremento delle macchine utensili, ma anche l'incremento dell'acciaio. Il 2016 è stato, come abbiamo visto nella settimana scorsa, l'anno della ripresa della produzione di acciaio in Italia, che finalmente dopo 5 anni ha un segno positivo. Insomma, tutta una serie di segnali incoraggianti, no? Assolutamente, noi abbiamo visto una ripresa importante degli investimenti, il piano Calenda ha dato un'ulteriore spinta, anche se per la tipologia di impianti che facciamo noi, che hanno un periodo di gestazione e di realizzazione molto lungo, beneficeranno di questo iperammortamento solo le aziende che erano già quasi pronte prima. Infatti uno dei problemi necessari sarà un po' l'allungamento nel... Ma è probabile che venga concesso. Non può diventare una misura permanente, secondo me, perché poi se non c'è una scadenza, poi la gente rimanda all'infinito, se una cosa si può fare sempre. Si può fare ancora un anno. Però periodi più lunghi assolutamente, perché questi tipi di investimenti richiedono tempi di gestazione, quindi ho il problema, devo trovare la soluzione, devono... pensarla richiede di solito 6-7 mesi, dopodiché ne richiede 8-9 l'approntamento, la realizzazione e di conseguenza la messa in funzione. Siamo sui 18 mesi come periodo dal momento in cui penso una cosa al momento in cui l'ho realizzata. E quindi è auspicabile che almeno per un anno venga rinnovato. Sì. Senta, abbiamo un minuto. Tutti questi robot che girano per la fabbrica e anche provvedono alle cose logistiche, da un lato liberano il lavoro e tolgono la necessità di persone per fare lavori alienanti e a basso valore aggiunto, dall'altro lato c'è un problema di manodopera in esubero e un problema di competenze. Guardi, certamente esiste una trasformazione che deve essere governata, però le cito due cose. Un titolo che è di un giornale che diceva le macchine divoreranno l'uomo, è una frase che... Ma chi è che ha fatto un titolo così scemo? Un titolo così scemo lo fece il New York Times nel 1921. Ma i titoli che ci sono adesso non sono tanto diversi. Esatto, ma infatti esatto. Noi in questa trasmissione, lo dico in chiusura, difendiamo i robot, sosteniamo che i robot facciano aumentare l'occupazione e vogliamo più robot che ci saranno più occupati e riteniamo che chi non la pensa così sia semplicemente, non un'idea rispettabile pare la mia, ma solo sciocco. E quindi poi diceva che dobbiamo chiudere purtroppo? C'è una frase interessante che dice: sempre meno lavoro da parte degli individui per soddisfare i bisogni della comunità. Sa chi la disse? Chi? Einstein a Berlino nel 1931. Ah, bellissime, queste poi me le dà, che così me le riciclo. Dobbiamo chiudere, viva le fabbriche, viva i robot, buon sabato e ci sentiamo domani alle 1.10.